La disputa con scribi e farisei a Cafarnao. L'arrivo della madre dei fratelli. 27 settembre 1945. La stessa scena della passata visione. Gesù si accomiata dalla vedova, tenendo però già per mano il piccolo Giuseppe, e dice alla donna: «Non verrà nessuno prima del mio ritorno, a meno che non sia un gentile. Ma chiunque venga trattienilo fino a dopo domani dicendo che verrò senza fallo. Lo dirò, maestro. E se vi saranno malati li ospiterò come tu mi hai insegnato. Addio, allora, e la pace sia con voi. Vieni, Mannaen. Da questo breve spunto comprendo che malati e infelici in genere lo hanno raggiunto a Corozzime e che all'evangelizzazione del lavoro Gesù ha unito quella del miracolo. E se Corozzime resta sempre indifferente è proprio segno che è terreno selvaggio e incoltivabile. Pure Gesù la attraversa, salutando quelli che lo salutano, come nulla fosse, e poi riprendendo a parlare con Mannaen, che è incerto se ripartire per Macheronte o rimanere ancora una settimana. Punto. Nella casa di Cafarnao intanto si preparano al sabato. Matteo, un poco zoppicante, riceve i compagni, li soccorre d'acqua e di frutta fresche, chiedendo delle loro missioni. Pietro arriccia il naso vedendo che già dei farisei bighellonano presso la casa. Hanno voglia di avvelenarci il sabato. Quasi direi di andare incontro al maestro e dirgli di andare a Betsaida lasciando costoro delusi. E credi che il maestro lo farebbe? Chiede suo fratello. E poi c'è nella stanza bassa quel povero infelice che aspetta, osserva Matteo. Si potrebbe portarlo con la barca a Betsaida, e io, o qualche altro, andare incontro al maestro, dice Pietro. Quasi quasi, dice Filippo che, avendo famiglia a Betsaida, ci andrebbe volentieri. Molto più che, vedete, vedete. Oggi la guardia è rinforzata con degli scribi. Andiamo senza perdere tempo. Voi, col malato, passate dall'orto. E via per il dietro della casa. Io porto la barca al pozzo del fico e Giacomo fa la stessa cosa. Simone Zelote e i fratelli di Gesù vanno incontro al maestro. Io non vado via con l'indemoniato, proclama l'Iscariota. Perché? Hai paura che ti si attacchi il demonio? Non m'inquietare, Simone di Giona. Ho detto che io non vado e non vado. Va coi cugini incontro a Gesù. No. Auf. Vieni in barca. No. Ma insomma che vuoi? Sei sempre quello degli ostacoli. Voglio rimanere dove sono, qui. Non ho paura di nessuno e non scappo. E del resto il maestro non vi sarebbe grato della trovata. E sarebbe un'altra predica di rimprovero, e io non ho voglia di averla per vostra colpa. Voi andate. Io resterò a riferire. No proprio. O tutti o nessuno, urla Pietro. Allora nessuno, perché il maestro è qui. E colo che si avanza. Dice serio lo zelote che guardava sulla via. Pietro, malcontento, borbotta fra la barba. Ma va incontro a Gesù con gli altri. Dopo i primi saluti gli dicono di un indemoniato, cieco e muto, che attende coi parenti la sua venuta da molte ore. Matteo spiega, è come inerte. Si è gettato su dei sacchi vuoti e non si è più mosso. I parenti sperano in te. Vieni a ristorarti e poi lo soccorrerai. No. Vado subito da lui. Dov'è? Nella stanza bassa presso al forno. L'ho messo lì coi parenti perché ci sono molti farisei, e anche scribi, che sembrano in agguato. Sì, e sarebbe meglio non farli contenti, brontola Pietro. Giuda di Simone non c'è? Chiede Gesù. È rimasto in casa. Lui deve fare ciò che gli altri non fanno, brontola ancora Pietro. Gesù lo guarda ma non lo rimprovera. Si affretta alla casa affidando il bambino proprio a Pietro, che se lo carezza tirando subito fuori dall'alta cintura un fischietto dicendo: uno a te e uno a mio figlio. Domani sera ti ci porto a vederlo. Me li sono fatti fare da un pastore al quale ho parlato di Gesù. Gesù entra in casa, saluta Giuda che sembra tutto occupato ad ordinare le stoviglie, e poi tira diritto fino ad una specie di dispensa bassa e scura che è addossata al forno. Fate uscire il malato, ordina Gesù. Un fariseo che non è di Cafarnao, ma che ha una mutria peggiore ancora quelle dei farisei locali, dice, non è un malato. È un indemoniato. È sempre una malattia dello spirito. Ma lui ha legati gli occhi e la favella. È sempre una malattia dello spirito, che si estende alle membra e agli organi, la possessione. Se mi avessi lasciato terminare avresti saputo che volevo dire questo. Anche la febbre è nel sangue quando si è malati, ma dal sangue attacca poi questa o quella parte del corpo. Il fariseo non sa che ribattere e tace. L'indemoniato è stato condotto di fronte a Gesù. Inerte. Ha detto bene Matteo. Molto impedito dal demonio. La gente intanto si affolla. È incredibile come, specie nelle ore, dirò così, di svago, facesse presto un tempo ad accorrere gente dove c'era da vedere qualche cosa. Vi sono ora i notabili di Cafarnao, tra i quali i quattro farisei, vi è Giairo, e in un angolo, con la scusa di sorvegliare l'ordine, vi è il centurione romano. E con lui cittadini di altre città. In nome di Dio, lascia le pupille e la lingua di costui. Lo voglio. Libera di te questa creatura. Non ti è più lecito tenerla. Via! Grida Gesù tendendo le mani nel comando. Il miracolo si inizia con un urlo di rabbia del demonio e finisce con un urlo di gioia del liberato che grida, figlio di Davide. Figlio di Davide. Santo e re. Come fa costui a sapere chi è colui che lo ha guarito? Chiede uno scriba. Ma è tutta una commedia. Questa gente è pagata per fare ciò. Dice alzando le spalle un fariseo. Ma da chi? Se è lecito chiedervelo? Interroga Giairo. Anche da te. E a che scopo? Per rendere celebre Cafarnao. Non umiliare la tua intelligenza dicendo stoltezze e la tua lingua sporcandola di menzogne. Tu sai che ciò non è vero? E dovresti capire che dici una stoltezza. Ciò che qui avviene è avvenuto in molte parti di Israele. Allora dovunque vi sarà chi paga? In verità non sapevo che in Israele la plebe fosse molto ricca. Perché voi, e con voi i grandi tutti, non pagate certo per questo. Allora paga la plebe, che è l'unica che ami il maestro. Tu sei sinagogo e lo ami. La Emanaea. E a Betania è Lazzaro di Teofilo. Questi non sono plebe. Ma sono essi, e sono io, onesti. e non truffiamo nessuno, in niente. E tantomeno nelle cose di fede. Non ce lo permettiamo noi, temendo Dio e avendo capito ciò che a Dio piace, l'onestà. I farisei voltano le spalle a Gairo e attaccano i parenti del guarito? Chi vi ha detto di venire qui? Chi? Molti. Già guariti o parenti di guariti? Ma che vi hanno dato? Dato? L'assicurazione che egli ce lo avrebbe guarito. Ma era proprio malato? Oh! Menti subdole. Credete che si sia finto tutto ciò? Andate a Gadara e chiedete, se non credete, della sventura della famiglia di Anna di Ismaele. La gente di Cafarnao, sdegnata, tumultua, mentre dei Galilei, venuti da presso Nazarè, dicono, eppure costui è figlio di Giuseppe Legnaiolo. I cittadini di Cafarnao, fedeli a Gesù, urlano, no. È quello che lui dice e che il guarito ha detto, figlio di Dio e figlio di Davide. Ma non aumentate l'esaltazione del popolo con le vostre asserzioni, dice sprezzante uno scriba. E che è allora, secondo voi? Un Belzebù. Lingue di vipere. Bestemmiatori. Posseduti voi. Ciechi di cuore. Rovina nostra. Anche la gioia del Messia vorreste levarci, eh? Strozzini. Sel ci aride. Un bel bacano. Gesù, che si era ritirato in cucina per bere un poco d'acqua, si affaccia sulla soglia in tempo per sentire una volta ancora la trita e stolta accusa farisaica. Costui non è che un Belzebù, perché i demoni lo ubbidiscono. Il grande Belzebù suo padre lo aiuta, ed egli caccia i demoni non con altro che con l'opera di Belzebù principe dei demoni. Gesù scende i due piccoli scalini della soglia e viene avanti, diritto, severo e calmo, fermandosi proprio di fronte al gruppo scribo, farisaico, e fissatili acutamente dice loro: anche sulla terra noi vediamo che un regno diviso in partiti contrari fra di loro diviene debole all'interno e facile ad essere aggredito e devastato dagli stati vicini che lo rendono suo schiavo. Anche sulla terra vediamo che una città divisa in parti contrarie non ha più benessere. E così lo è di una famiglia i cui componenti siano divisi dall'astio fra di loro. Essa si sgretola, diviene un inutile sbocconcellamento che non serve a nessuno e che fa ridere i concittadini. La concordia, oltre che il dovere, è furbizia. Perché mantiene indipendenti, forti e amorosi. Questo dovrebbero riflettere i patriotti, i cittadini, i familiari, quando per luzzolo di un utile singolo vengono tentati a separazioni e a sopraffazioni che sono sempre pericolose, essendo alterne nei partiti, essendo distruttrici negli affetti. E questa furbizia infatti esercitano coloro che sono i padroni del mondo. Osservate Roma nella sua innegabile potenza, anni tanto penosa. Domina il mondo. Ma è unita in un unico parere, in una sola volontà, dominare. Anche fra di loro ci saranno certo contrasti, antipatie, ribellioni. Ma questo sta nel fondo. Alla superficie è un blocco solo, senza incrinature, senza turbamenti. Vogliono tutti la stessa cosa e riescono perché vogliono. E riusciranno finché vorranno la stessa cosa. Guardate questo esempio umano di furbizia coesiva e pensate, se questi figli del secolo sono così, cosa non sarà Satana? Essi sono per noi dei Satana. Ma la loro satanicità pagana è nulla rispetto alla satanicità perfetta di Satana e dei suoi demoni. Là, in quel regno eterno, senza secolo, senza fine, senza limite di astuzia e di cattiveria, là dove si gode di nuocere a Dio e agli uomini, ed è loro respiro il nuocere, loro doloroso godimento. Unico, atroce, con perfezione maledetta si è raggiunta la fusione degli spiriti, uniti in un solo volere. Nuocere. Ora se, come voi volete sostenere per insinuare dubbi sul mio potere, Satana è colui che mi aiuta perché io sono un Belzebù minore, non avviene che Satana è in discordia con se stesso e coi suoi demoni? Si caccia questi dai suoi possessi? E se in discordia è, potrà mai durare il suo regno? No, che ciò non è. Satana è furbissimo e non si nuoce. Egli mira ad estendere non a ridurre il suo regno nei cuori. La sua vita è rubare, nuocere, mentire, offendere, turbare. Rubare anime a Dio e pace agli uomini. Nuocere alle creature del Padre dando dolore allo stesso. Mentire per traviare. Offendere per godere. Turbare perché egli è il disordine. E non può mutare. È eterno nel suo essere e nei suoi metodi. Ma rispondete a questa domanda. Se io caccio i demoni in nome di Belzebù, in nome di chi li cacciano i vostri figli? Vorrete confessare allora che essi pure sono Belzebù? Ora, se voi lo dite, essi vi giudicheranno calunniatori. E se la loro santità sarà tale da non reagire all'accusa, vi giudicherete da voi stessi confessando che credete di avere molti demoni in Israele. E vi giudicherà Iddio in nome dei figli d'Israele accusati d'essere demoni. Perciò, da qual che venga il giudizio, essi in fondo saranno i vostri giudici, laddove il giudizio non è subornato da pressioni umane. Se poi, come è verità, io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, è dunque prova che è giunto a voi il regno di Dio e il re di questo regno. Il quale re ha un potere tale che nessuna forza contraria al suo regno gli può resistere. Onde io leggo e costringo gli usurpatori dei figli del mio regno ad uscire dai luoghi occupati ed a restituirmi la preda perché io ne prenda possesso. Non fa forse così uno che voglia entrare in una casa abitata da un forte per levargli i beni, bene o male acquistati? Così fa. Entra e lo lega. E dopo averlo fatto può spogliare la casa. Io leggo l'angelo tenebroso che si è preso ciò che è mio, e gli levo il bene che mi ha rubato. E io solo posso farlo, perché io solo sono il forte, il padre del secolo futuro, il principe della pace. Spiegaci cosa vuoi dire dicendo, padre del secolo futuro. Credi tu di vivere fino al nuovo secolo e, più stoltamente ancora, pensi di creare il tempo, tu, povero uomo? Il tempo è di Dio, chiede uno scriba. E tu, scriba, me lo chiedi. Non sai dunque che vi sarà un secolo che avrà inizio ma fine non avrà, e che sarà il mio? In esso io trionferò radunando intorno a me coloro che sono i figli di esso, ed essi vivranno eterni come quel secolo che io avrò creato, e già lo sto creando mettendo lo spirito in valore, sulla carne e sul mondo e sugli inferi che io scaccio perché tutto io posso. Per questo vi dico che chi non è con me è contro di me, e chi con me non raccoglie disperde. Perché io sono colui che sono. E chi non crede questo, già profetizzato, pecca contro lo Spirito Santo, la cui parola fu detta dai profeti e non è menzogna né errore, e va creduta senza resistenza. Perché io ve lo dico, tutto sarà perdonato agli uomini, ogni loro peccato e bestemmia. Perché Dio sa che l'uomo